Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Oggi vi portiamo in Svizzera per spiegarvi come funziona il sistema formativo superiore in un paese tanto vicino quanto lontano rispetto al nostro. Vicino per la geografia, lontano in quanto è a tutt'oggi una nazione al di fuori dell'Unione Europea e per questo tutto può risultare un po' più complicato qualora volessimo trasferirci stabilmente nella Confederazione Elvetica per studiare o lavorare. A farci da guida una giovane connazionale che sta studiando in una delle più prestigiose università svizzere, pronta come sempre a regalarvi preziosi consigli. Le dritte del Ministero degli Esteri sulle misure legislative attualmente in vigore per la riattrazione dei talenti, per chi tra voi stesse progettando un rientro nella penisola, anche sull'onda delle difficoltà legate alla pandemia, apriranno la puntata di oggi, nella quale torneranno pure gli eventi e le offerte di lavoro segnalate per voi da Eures Italia, come sempre in giro per l'Europa. E chiuderemo la mezz'ora insieme parlandovi di una graphic novel pubblicata recentemente che ha al suo centro l'Erasmus, vera e propria icona della generazione giovane e internazionale. Siamo pronti a varcare il confine con la vicinissima Svizzera. Oggi nessun biglietto aereo, ma una semplice passeggiata oltre frontiera, qui a Generazione Mobile. Generazione Mobile. Lo spunto della settimana arriva dal nord Europa. Il Ministero scozzese dell'Istruzione ha annunciato che dall'anno accademico 2021-2022 gli studenti europei dovranno pagare le tasse universitarie qualora decidessero di immatricolarsi nelle università di Edimburgo e Glasgow. La decisione è diretta conseguenza dell'uscita forzata della Scozia dall'Unione Europea a causa di Brexit, denuncia il governo di Edimburgo, che avverte a rischio anche la partecipazione delle università locali al programma Erasmus. La buona notizia è che gli studenti europei che hanno già iniziato i loro studi in Scozia quest'anno continueranno a non pagare le tasse universitarie per la durata dei loro studi. Bene, è arrivato ora il momento di Toolbox, dove tornano le indicazioni utili del Ministero degli Affari Esteri dedicate a chi già risiede oltre confine oppure intende trasferirvisi a breve. Negli ultimi anni, vari provvedimenti legislativi hanno cercato di incentivare il rientro dei connazionali dall'estero nell'ottica di riportare talenti e professionalità in Italia. Insieme a Luigi Maria Vignali, direttore generale per gli italiani all'estero della Farnesina, facciamo il punto della situazione. Sicuramente quello più recente, il decreto crescita del 2019, che poi è entrato a far parte della legge di bilancio e che ha preso atto della necessità di dare una risposta, da un lato alla cosiddetta appunto fuga dei cervelli, che è un termine che a me non piace, però che indica bene il fatto che ci sono delle risorse importanti che in qualche modo vanno via da questo paese, risorse che sono anche misurabili in termini economici. Questo impegno che il paese ha dato per formare i nostri giovani, dovremmo cercare di recuperarlo in qualche modo, arricchito dalle esperienze professionali, culturali, linguistiche, perché no, anche umane, no? Che hanno maturato all'estero i nostri giovani, e di poterlo reinvestire nel nostro paese. Da queste premesse parte il decreto crescita del 2019 e per queste sono state in qualche modo costruite delle agevolazioni. Andiamo ora nello specifico a dettagliare le categorie forse più interessanti che sono poi oggetto di queste misure di incentivo per il rientro. Partirei proprio dai giovani professionisti, sono anche forse l'oro nero della nostra società, molti loro sono andati all'estero, si sono formati. Quali vantaggi possono avere da un rientro in Italia a livello legislativo? Dunque, per i cosiddetti giovani lavoratori impatriati, cioè che tornano, stiamo parlando di laureati, chi è stato residente fiscale all'estero per più di 2 anni, soggetti che decidono di avviare un'impresa in Italia, per esempio, ecco, il reddito imponibile viene calcolato pari al 30% di quello reale e pari addirittura al 10% se la nuova residenza è stabilita in una regione del sud Italia, quindi Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia o Sardegna. Quindi è un'agevolazione importante questa di abbattere il reddito imponibile al 30% o addirittura al 10% del totale se la residenza è nel sud Italia. Vale per 5 anni, ma questi 5 anni possono arrivare a 15 addirittura in presenza di figli minorenni a carico o acquistando una casa in Italia. Quindi si incentiva in qualche modo anche l'acquisto di una casa, per esempio per sostenere appunto soprattutto le regioni del Mezzogiorno. Le agevolazioni sono ancora più forti, se vogliamo, per i ricercatori e i docenti. Il reddito imponibile è calcolato al 10%, quindi veramente molto molto basso, e ha una durata di 6 anni che si possono estendere anche in questo caso, ancora una volta, se si acquista una casa in Italia o se si hanno figli minorenni a carico. Quindi devo dire agevolazioni che durano come minimo 5-6 anni, ma che si possono anche estendere e che danno parecchi vantaggi, insomma, a chi decide di tornare e di investire le proprie competenze nel nostro paese. Sì, questo è importante, ambasciatore. Quindi diciamo che sostanzialmente si è fatto un po' di più per quel settore della ricerca, sostanzialmente, con il quale si è cominciato a parlare già nei primi anni 2000 della cosiddetta, la citata lei, fuga dei cervelli. Sì, assolutamente, il più incentivato, anche perché i nostri ricercatori sono davvero molto bravi. Ovviamente stiamo parlando di agevolazioni fiscali in particolare, poi ovviamente c'è un altro problema, che è il trovare opportunità in Italia, ma qui chiaramente entriamo in un altro campo. Un'ultima domanda, ambasciatore, invece riguarda le altre categorie. Ci sono anche altre categorie incentivate al decreto crescita, quali sono? Beh, ci sono per esempio tutto un altro target, se vogliamo, però i pensionati, no? I pensionati che vanno all'estero per sfruttare meglio il potere di acquisto della loro pensione, che non sono stati residenti in Italia nei 5 anni precedenti e che vanno, magari tornano nei piccoli comuni del Mezzogiorno. Ecco, in quel caso c'è una liquida unica del 7% su tutti i redditi percepiti, quindi un vantaggio enorme che dura per 10 anni. E poi ci sono altre categorie, ci sono gli sportivi professionisti che hanno un imponibile pari al 50% del reddito, che è sicuramente molto vantaggioso. Ci sono i cosiddetti neoresidenti che hanno redditi importanti e che possono tornare se non sono stati in Italia negli ultimi 9 anni. Pagando un'imposta sostitutiva forfettaria di 100.000 euro, quindi ci sono altre categorie, però le più interessanti, credo quelle che, sulle quali più dobbiamo puntare, sono i giovani laureati, i ricercatori, i giovani che vogliono fare impresa nel nostro paese, perché su questi dobbiamo investire. Per maggiori informazioni www.esteri.it, sezione Italiani nel mondo. Ed è arrivato il momento di conoscere la giovane testimone della settimana. Si tratta di una studentessa universitaria che ha scelto la Svizzera quale paese dove compiere il proprio percorso in fisica. Oggi Marina è in onda con noi per spiegarci come fare a studiare nella Confederazione Elvetica, come sempre con tanti consigli utili. Buon pomeriggio, Marina Rapellini. Buon pomeriggio, ciao. Marina, frequenti a Torino il liceo scientifico con il quarto anno di scambio negli Stati Uniti a Los Angeles. Quale marcia in più ti ha fornito quell'esperienza in America? L'esperienza negli Stati Uniti mi ha fornito, potrei dire, 2 marce. Una da un punto di vista personale, perché mi ha aiutato molto a capire la mia persona e a svilupparmi. Poi, chiaramente dal punto di vista accademico, sia un miglioramento dal punto di vista della lingua inglese, sia mi ha colpito molto il fatto che la si può scegliere cosa studiare avendo già un focus più mirato per quanto si potrà fare all'università. E dopo il liceo la scelta di lasciare l'Italia per proseguire gli studi all'estero. Perché? Sapevo già da quando avevo 16 anni che sarei voluto rimanere dopo i miei studi universitari in ambito accademico per lavorare nella ricerca, e purtroppo l'Italia non offriva quello che stavo cercando, e quindi ho deciso di lasciare l'Italia dirigendomi all'estero. Ecco, spiegaci perché la tua scelta è caduta proprio sull'EPFL in Svizzera. Perché appunto io sapevo che avrei voluto fare la ricercatrice e poi rimanere in ambito universitario, e il mio sogno era diventare un insegnante proprio universitario, quindi ho iniziato a guardare sia quanto riguardava l'Inghilterra che la Svizzera, e poi la mia scelta è caduta sulle PFL perché è un'eccellenza accademica, c'è tantissima ricerca e il campus offre tantissime possibilità. Nello specifico, Marina, a quale corso ti sei iscritta in Svizzera? Adesso sto frequentando l'ultimo anno di bachelor di fisica teorica. Una rapida parentesi ci porta con te a Granada, dove hai svolto uno scambio accademico. Come hai trovato le differenze tra Svizzera e Spagna in termini di studio? Ci sono tantissime differenze. Allora, inizio dalla Svizzera. Le classi qui sono molto più grandi di quelle della Spagna. Chiaramente la sezione di fisica non presenta tantissimi studenti, siamo al massimo una settantina, un'ottantina, però non c'è un rapporto con il professore, e direi che anche qui c'è un approccio molto più pratico. Molto un focus molto molto importante sugli esercizi, infatti gli esami consistono solamente di esercizi, e molto anche importante il laboratorio, infatti fin dal primo anno è una materia se è laboratorio. Invece in Spagna le classi sono molto più piccole, a me mi è sembrato di essere tornata al liceo, e molto più importante invece è un aspetto teorico. Se al massimo c'è un'ora di esercizio a settimana e laboratorio come materia in sé non esiste, alcune materie hanno alcuni laboratori al semestre, però sì, direi che è un aspetto molto più teorico, invece noi qui abbiamo un aspetto molto più pratico. E allora Marina, arriviamo ai tuoi consigli pratici su come studiare all'estero, con un focus ovviamente specifico sulla Svizzera. Come accedere innanzitutto all'EPFL? Quali sono i requisiti primari? Allora, accedere all'EPFL, considerando il livello di studi che poi bisogna mantenere, è molto facile. Per quanto riguarda il bachelor, semplicemente un livello B2 di francese, e poi per nella maturità bisogna aver conseguito un 80 su 100 e chiedono i voti delle prove, quindi prima, seconda e terza prova, separati per vedere quanto si è preso nella prova di matematica. Quanto tempo prima cominciare a muoversi per iscriversi? Non molto tempo prima, io mi ricordo che per il corso che iniziava a settembre mi sono iscritta nel mese di aprile. E com'è stato il tuo primo impatto con la realtà accademica svizzera? È stato molto drammatico, non lo posso assolutamente nascondere, la pressione a cui si è sottoposti già a livello universitario è molto più elevata di quella di un liceo, e qui all'EPFL è veramente, veramente tosto, soprattutto perché il primo semestre, se non si ha i voti qui vanno da 1 a 6, se non si ha la media del 3,5 si è mandati a un corso di messa a livello, tradotto letteralmente, e se non si passa si è fuori da tutti i politecnici in Svizzera, quindi il primo anno la pressione è molto molto elevata. Questa pressione rimane anche negli anni successivi, però ci si può dire che ci si abitua, si sa che quello è il ritmo da seguire e si va avanti. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Marina Rapellini, 22enne studentessa di fisica al prestigioso EPFL in Svizzera. Con Marina stiamo conducendo un excursus sullo studio nella Confederazione Elvetica, guardando anche ovviamente alle opportunità nel settore della fisica. Riprendiamo allora l'ascolto. Generazione Mobile. Com'è scandito l'anno accademico, Marina? Allora, l'anno accademico, essendo in Svizzera, è molto rigoroso, cioè lo schema è molto chiaro, 14 settimane di lezione, in seguito ci sono 3 settimane nel periodo natalizio, se no 2 settimane nel mese di giugno di pausa, di revisione, e poi ci sono 3 settimane di esami. Gli esami non sono per niente come in Italia, come mi dicono i miei amici. Qui ci vengono comunicate le date all'incirca l'ottava settimana di lezione, quella è la data, quello è l'orario, non ci sono appelli, non si può scegliere la data, bisogna presentarsi e il voto non si può assolutamente rifiutare. Le lezioni sono solo in francese o basta conoscere l'inglese? Per quanto riguarda il bachelor è essenziale il francese, ci sono alcune sezioni come ingegneria meccanica dove ci sono 300-400 studenti, in cui il primo anno alcuni corsi base importanti come analisi avanzata o fisica avanzata 1 possono essere scelti anche di seguire in inglese o in tedesco, però per esempio per sezioni come matematica e fisica per il bachelor è assolutamente fondamentale conoscere il francese, invece per quanto riguarda un master o un PhD l'inglese è più che sufficiente. Ci ha già raccontato un po' la pressione forte a cui sei stata anche sottoposta, anche com'è la metodologia di insegnamento in Svizzera, c'è un metodo svizzero di insegnamento che hai notato, hai già raccontato le differenze con la Spagna ma anche con l'Italia? Sì, io ho notato che qui abbiamo sempre un tot di ore di teoria e un tot di ore di esercizi che sono più o meno bilanciate, potremmo dire 2-2 o massimo 3-2 come rapporto, però ho notato che sono molto più improntati appunto su quanto riguarda l'esercizio, le ore di teoria sì, è importante seguirle per capire di cosa si sta parlando, però poi quello che conta veramente è saper svolgere l'esercizio, ed è molto più importante, ho notato, soprattutto il primo anno, è la metodologia. Cioè uno può svolgere l'esercizio anche poi arrivando a un risultato erroneo, però se si ha seguito lo schema che loro ti dicono, comunque qualche punto si riesce sempre a ottenere. Vogliono proprio che si impari a ragionare in un modo diverso. È molto appunto importante questa metodologia che loro è quello su cui lavorano di più l'ultimo anno. Marina, non possiamo nasconderci il periodo, è un periodo molto complicato dal punto di vista di pandemia. Sta influendo nella progressione dei tuoi studi, anche nel modo in cui stai studiando e seguendo le lezioni? Sì, sì. Io quando la pandemia è arrivata con la prima ondata mi trovavo a Granada e sono rimasta lì, non sono tornata indietro e subito tutti i corsi sono iniziati online e abbiamo sostenuto gli esami poi online anche nel mese di giugno. Mentre qui l'EPFL ha adottato per gli esami, ha aspettato nel mese di agosto in modo da farli tutti presenziali e attualmente ha adottato una tecnica secondo la quale siamo divisi in 3 gruppi, secondo il numero di matricolazione e a rotazione ogni giorno si può accedere al campus oppure no. e i giorni in cui non si può accedere sul campo si segue tutto da Zoom, però sì, è cambiato moltissimo, lo vedo anche soprattutto per un corso importante come laboratorio, la pandemia ha cambiato veramente tanto. Chiaro. Marina, vita in Svizzera, i consigli pratici, si parte ovviamente dall'alloggio, dove cercarlo, hai dei siti da consigliare e anche quali costi è attendersi? Allora, trovare un appartamento in Svizzera è dire praticamente, cioè un appartamento praticamente impossibile perché non siamo né svizzeri e bisogna sennò avere un garante svizzero. Quindi io mi sono sempre rivolta a delle associazioni che gestiscono degli edifici soltanto con case per studenti. I nomi più importanti sono la FML o se no anche Studhom. Però bisogna considerare il fatto che sono molto molto richieste, quindi bisogna iscriversi perlomeno nel febbraio precedente, all'inizio dei corsi in settembre, per poter trovare posto. E i prezzi vanno per uno studio singolo, che vanno su 15-18 metri quadri, partono da 900.000 franchi al mese. Invece se si cerca una camera con per esempio la cucina condivisa, i prezzi partono da 400-500 franchi al mese. Non è ovviamente poco. È semplice ottenere un permesso di soggiorno in Svizzera per studenti europei? Sì, per noi italiani e per tutti gli studenti europei è molto semplice, bisogna recarsi al comune di residenza. Io per esempio attualmente mi trovo nel comune di Losanna, però a causa pandemia il controllo disabitante di Losanna è chiuso, quindi attraverso email comunque chiaramente siamo in Svizzera, quindi tutto funziona perfettamente. Bisogna mandare l'attestazione di studi, nel mio caso l'FSL, il contratto io in questo caso mi trovo in una casa condivisa, quindi il contratto di locazione, e poi alcuni documenti sulla residenza per me a Torino e sull'atto di nascita. Marina, ringraziandoti davvero per tutti i consigli pratici che ci hai regalato oggi, ti poniamo l'ultima domanda, quella di rito: il primo consiglio pratico che daresti a un giovane coetaneo che sta pensando di andare a studiare all'estero? Di non pensarci due volte, di partire, di non aver paura di lasciare qualcuno o qualcosa indietro, perché quando torneremo sarà sempre lì, e assolutamente non perdere l'esperienza di scoprire nuove realtà. Bene, è il momento di lasciare la testimonianza di Marina per spostarci verso la rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Nuovo appuntamento con le offerte e le iniziative in Europa insieme all'agenzia Eures Italia. Sentiamo. Buongiorno, sono Maria Rosa Chiocca, consulente Eures Regione Liguria presso il centro impiego di Chiavari, e ho il piacere oggi di presentare l'International Career and Employer Days organizzato dalla rete Eures Italia. L'International Career and Employer Days è un evento nazionale di orientamento e di reclutamento interamente online che si svolgerà in concomitanza con la Settimana Europea delle Competenze Professionali, il 10 e l'11 di novembre, sulla piattaforma europeanjobdays.eu. Partecipano all'evento aziende italiane ed europee, centri per l'impiego, università, istituzioni formative nazionali ed internazionali. L'evento ospiterà inoltre l'International Career Day del Salone Orientamenti di Genova. Nel corso delle due giornate sarà possibile consultare le offerte, inviare le candidature, prenotare e sostenere colloqui di lavoro in live chat, incontrare virtualmente gli espositori e consulenti Eures di diversi paesi europei. Inoltre è a disposizione un ricco programma di workshop. La prima giornata rivolti in particolare alle persone in cerca di lavoro e focalizzate sui temi dell'orientamento al lavoro, servizi della rete Eures, mercato del lavoro, progetti europei di mobilità, Your First Job Reactivate, autoimprenditoria, programmi per i giovani e tanto altro. Nella seconda giornata le tematiche sono rivolte prevalentemente ai datori di lavoro, con un focus sulle politiche del lavoro, incentivi all'assunzione in Italia, progetti europei di mobilità, regolamentazione di tirocini e contratti e tanto altro. Grazie agli strumenti di chat online e live streaming sarà possibile partecipare comodamente da casa. Partecipare è gratuito e facile, basta registrarsi online e collegarsi durante l'evento dal proprio dispositivo. Per tutte le informazioni potete scriverci all'indirizzo jditalia@gmail.com e potete seguire gli aggiornamenti sui nostri canali social Facebook e Twitter. Vi aspettiamo quindi online il 10 e l'11 novembre su europeanjobdays.eu. E siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. L'Erasmus, tema ricorrente nel nostro programma, a cui dedicheremo un'intera puntata la prossima settimana, è stato trattato e analizzato negli anni in svariate forme culturali, libri e film, solo per fare un esempio. Oggi vogliamo introdurre una variante ulteriore, la graphic novel. Lo facciamo attraverso un libro di recente pubblicazione. Con noi Lorenzo Coltellacci, coautore di Un singolo passo, graphic novel dedicata proprio all'Erasmus. L'idea nasce innanzitutto da un'esperienza personale. Personalmente ho fatto l'Erasmus appunto in Portogallo e siccome è stata un'esperienza talmente formativa e importante per me, credevo che fosse necessario in un certo senso provare a raccontare tutto quello che questa esperienza può significare. Qual è il filo narrativo di questa graphic novel? Possono trovare innanzitutto una storia universale, perché sebbene poi parta da un po' dalla mia esperienza, il personaggio poi, il protagonista a un certo punto prende vita propria e vive la sua esperienza. Quello che i lettori potranno trovare, diciamo, sono tutte quelle paure, soprattutto iniziali, che riguardano il lanciarsi in un'esperienza del genere, ma poi anche tutto ciò che di bello comporta l'essersi lasciati un pochino andare. Una domanda pratica sui tuoi consigli: A, a chi decide di intraprendere un Erasmus, e B, a chi decide di intraprenderlo in Portogallo. Io credo che l'Erasmus per gli studenti universitari sia quasi necessario, perché è un'occasione che si presenta in un momento della vita, appunto quando si è studenti universitari, quindi poco più che ventenni, in cui si ha un po' quell'incoscienza e quel coraggio necessario per poter affrontare una sfida, anche volendo. Io l'ho fatto a Porto. Quello che poi appunto nel fumetto cerchiamo di mettere in risalto è proprio questo contrasto che c'è tra l'ipotetica paura di intraprendere un'impresa che inizialmente può spaventare e però poi tutto quanto il bello che viene dopo e dall'aver avuto il coraggio di fare questo viaggio. Per maggiori informazioni, Un singolo passo di Lorenzo Coltellacci, Niccolò Castro Cedeno ed Enrico Gabriele Rollo, edizioni Tunuè. Bene, chiudiamo ora la puntata con i nostri input, come facciamo sempre. Per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile. Ricordate di scaricare i nostri podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24. Questo vi permetterà di recuperare tutte le informazioni utili che potreste esservi persi nel corso della diretta. Internet Point resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio, consigli utili da chiedere o testimonianze personali da offrire? Scriveteci generazionemobile@radio24.it. E infine la nostra trasmissione vive soprattutto grazie ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza? Raccontare la vostra storia, ma soprattutto dare consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi stanno ascoltando? Fate parte della nostra Generazione Mobile? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi basta scrivere a generazionemobile@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Generazione Mobile, aspetto dunque i vostri contributi via email e vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.